Ciao, eutopiste ed eutopisti. Questa sera una voce risponde d'oltralpe, quella dell'artista parigina Sylvie Zampolinì, creatrice di Eutopie, che sono come schegge di luce nell'ombra tra immaginario ed ecologia. Il suo fare artistico potrebbe coincidere con la famosa frase del chimico e fisico francese Antoine Laurent Lavoisier: nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma, ispirata dal famoso frammento di Eraclito, Panterei, tutto scorre. Infatti, il suo percorrere luoghi, strade, paesi, è una ricerca continua di materie ferite e abbandonate per poter offrire loro nuove rinascite, sublimandole e declinandole in installazioni, in minuscole opere d'arte, in falsi gioielli, come lei stessa li definisce, ma preziosi di senso e di memoria. Il suo è un pensiero laterale o divergente dalle infinite letture che interroga il divenire incessante delle cose. Il suo saper ascoltare la voce di ciò che non è evidente, nel suo caso il racconto di oggetti rifiutati e poi ritrovati per riconsegnarli a un nuovo ciclo cosmico, mi fa pensare ad una guerriera immaginale che cerca di attraversare il mondo in poesia, come avrebbe detto il grande poeta tedesco Hölderlin. Anche i laboratori creativi che organizza per i ragazzi, basati appunto sul riciclaggio di materiali naturali e di scarto, diventano interventi collaborativi e socialmente consapevoli, tesi a preservare il sogno di una umanità migliore, attraverso un'arte intesa come responsabile di cambiamento, verso la condivisione, la convivialità, lo scambio, la partecipazione, l'unione. La sua è dunque una lotta contro questo sempre più predominante crollo ecologico, sostenuta da un impulso libertario che dovrebbe d'altronde esistere in ognuno di noi, specialmente in una società in cui si tenta il controllo sociale diffuso. Ma adesso, dopo uno stacco musicale, sempre in tema, lascio la parola alla nostra guerriera immaginale e alle sue utopie. Cro-Magnon, je suis un singe ou un poisson sur la terre en toute saison. Moi je tourne en rond, je tourne en rond. Je suis un seul puis des millions. Je suis un homme au cœur de lion à la guerre en toute saison. Moi je tourne en rond, je tourne en rond. Je suis un homme plein d'ambition. Belle voiture et belle maison, dans la chambre, dans le salon. Moi je tourne en rond, je tourne en rond. Je fais l'amour et la révolution, je fais le tour de la question. J'avance, avance à reculons. Oui, je tourne en rond, je tourne en rond. Tu vois, je suis pas un mur, je suis le Buongiorno a tutti. Sono molto grata di essere stata invitata per diffondere un messaggio sulla radio Utopie Cyberdada. La radio è in effetti un canale interessante perché è rimasta libera ed è meno controllata dagli altri media, secondo me. Scusate il mio pessimo italiano, ho vissuto 14 anni in Italia, ho fatto i miei studi d'arte all'Accademia delle Belle Arti di Roma, ma adesso vivo in Francia, a Parigi, da più di 30 anni. Mi è stato chiesto di parlare del mio mestiere, plasticienne in francese. In italiano non esiste il termine, ma mi piace questo, non il termine di artista, è più generico. Quindi mi è stato chiesto di parlare del mio mestiere e delle relazioni che esistono tra quello e l'attualità. Grande soggetto. Quindi ora parliamo poco, parliamo bene. Luigi XIV diceva: Plus tu parles et plus tu dis de conneries. Traduco più o meno. È molto difficile dire molte cose senza dire cose superflue. Adesso alcune brevi parole sul mio percorso. Mi sono sempre interessata a quel che mi circondeva. Mi circondava, perdono. Da pittrice dipingevo gli ambienti nei quali dipingevo, concentrandomi sulla penetrazione della luce nell'ombra, cioè porte, finestre, spazi, in modo accuratamente realista, ma in fondo simbolico. Nel frattempo, nella vita di tutti i giorni, trovavo oggetti abbandonati, tanti oggetti persi, buttati. Dappertutto dove mi spostavo, trovavo una moltitudine di oggetti in città, in campagna, in Francia, in Italia, in Olanda, negli Stati Uniti, dovunque. Allora ho cominciato a raccoglierli e a utilizzarli come mezzo di espressione. Come i pigmenti con la pittura, utilizzavo gli oggetti nelle mie composizioni. Mi chiedevo chi li aveva persi, quale era la loro storia, il loro percorso, quale caso faceva che ci eravamo incontrati. Li disponevo in modo che raccontassero delle storie su delle composizioni, dei mobili, appendendoli a mo' di candelabri oppure di tende, sapete, come quelle che impediscono le mosche di entrare dentro casa, ma con oggetti colorati che contavano aneddoti. Il denominatore comune tra tutti questi oggetti era che erano tutti fatti di plastica. Allora ho cominciato a studiare a fondo questa materia, una materia emblematica del XX, ora del XXI secolo. Il mio lavoro ha rivestito un aspetto sociologico. Parlavo dell'invasione della plastica. Tra l'altro, lo storico d'arte Jamel Ben Sheikh, nel suo libro dal titolo L'œuvre désirante, ha chiamato le mie opere ossuari del tempo presente nel 1995. Dalla fine degli anni Ottanta, quindi, fino ad oggi, mi sono dedicata a diffondere informazioni intorno a questo tema. Nei media non si parlava ancora a quell'epoca delle gigantesche spirali di microparticole di plastica negli oceani. Ho utilizzato tutti i mezzi artistici per per sviluppare la coscienza dei miei coetanei, bambini e adulti, per provocare un cambiamento nel modo, nei modi di consumi, di consumo e nei modi di essere. Installazioni, formule teatrali, giostre giganti nelle quali gli spettatori potevano penetrare. Qua, certo, c'è poco da vedere, ma il mio sito è molto ben illustrato. Andate su Art Majeur, artmajeur.com/fr/Zampo, il mio nome è ZAMPO, /Artworks, in inglese, ARTWORKS/Galleries, in inglese, con due L anche. Buona visita. Intorno agli anni 2000, quindi, mi sono messa a fare degli insetti con frammenti di oggetti plastica. Ora vi spiegherò perché. Oggigiorno la coscienza di un pericolo ecologico c'è, ma poco è fatto per invertire il vapore. Non entrerò qui in una polemica parlando dei freni politico-economici. C'è tanto da dire, ma non sarà in questo luogo né oggi. Comunque siamo sotto ipnosi, incapace di reagire. Forse ne parleremo in un'altra puntata. Per ora parliamo umilmente della fase seguente del mio percorso, gli insetti. Retournons à nos moutons. A un certo punto mi sono sentita vittima del fenomeno che denunciavo a un tale punto che il mio laboratorio, la mia casa, le mie tasche, la mia testa erano invasi da questo tsunami di rifiuti. Ho sentito il bisogno di liberarmi e anche di proporre delle soluzioni altre. Tra l'altro mi richiamava il mio vecchio amore della natura e la rivegetalizzazione del pianeta era del resto la soluzione al problema. Una delle soluzioni al problema. Una delle più importanti. Musica. Le ciment dans les plaines coule jusqu'aux montagnes, poison dans les fontaines, dans nos campagnes. De cyclone en rafale, notre histoire prend l'eau, reste notre idéal, faire les beaux. Remplir la balance, quelques pétrodollars contre l'existence. De l'équateur au pôle, ce poids sur nos épaules, de squatteurs éphémères, maintenant c'est plus trop. Puisqu'il faut changer les choses, quelques baffes à prendre, la veille est pour demain, des baffes à rendre, faire tenir debout une armée de roseaux, plus personne à genoux fait passer le mot. C'est vrai, la terre est ronde, mais qui viendra nous dire qu'elle est pour tout le monde et les autres à venir, puisqu'il faut changer les choses. Time! Rieccomi. Dicevo che mi sono messa a fare insetti. Prima innestati su frammenti plastica, li chiamavo plastect. Plastic, insect, concentrato in una parola. Raccontavo che erano stati scoperti da poco da un entomologo canadese che li stava studiando. In effetti erano molto interessanti, mangiavano la plastica. Una soluzione ai nostri problemi a poco costo? E purtroppo si era presto capito che deponevano uova di plastica, quindi la soluzione non si trovava lì. Poi sono nate altre famiglie di insetti. Vorrei parlarvi della ultima, le chimere, le chimères. Le chimères sono insetti che si innestano su frammenti di natura, non più su frammenti plastica. Come nascono le chimères? Nascono da un incontro con un seme, un nucleo, una drupe, una bacca, un cono. Una capsula, un glomerulo, una radice, un bulbo, un achenio, un pezzo di natura vegetale che muta in addome di insetto, ricettacolo di organi e di vita animali. Due parole sulla tecnica. Stabilizzo tutti gli elementi naturali attraverso innumerevoli fasi di incollaggio, essiccazione, incollaggio di nuovo. Queste fasi mi permettono di fare conoscenza con questi pezzi di natura, con loro, in modo approfondito. I frammenti di pianta provengono il più spesso dalla mia alimentazione e dal mio ambiente. Sono da considerare quindi come un elenco, una compilazione della flora locale. Mi piace includervi un elemento sintetico delle volte, derivato dal sovraconsumo. Seguendo il filo conduttore delle mie precedenti creazioni. I vari elementi sono assemblati con filo di ferro, il più spesso. Sono proibiti fori e cola, innestati in modo durevole, gli arti sono articolabili e riposizionabili all'infinito. Le chimere sono assicurate a vita. Piccolo messaggio pubblicitario. Le chimere sono assicurate a vita. Il servizio post vendita è curato dall'artista. Perché gli insetti sono diventati così importanti per me? Così importanti da diventare il mio marchio. Adesso vi darò alcune chiavi a voi di aprire le porte. Il mondo degli insetti. Gli insetti, popolo biologico dell'invisibile e della stranezza, occupano un posto complesso nel mondo vivente. Onnipresenti, le loro dimensioni discrete, la loro organizzazione sociale originale, permettono loro di adattarsi ad ambienti estremi e di convivere con tante attività umane. Ausiliari dell'impollinizzazione delle piante, attori della vita biologica dei suoli, dovrebbero suscitare la nostra massima attenzione e la nostra protezione. Ma non è così, perché le nostre monoculture gli hanno permesso di diventare invasori dannosi e sono considerati spesso come serbatoi di malattie trasmissibili all'uomo, da un'altra parte. Quindi entriamo troppo spesso in una lotta spietata e li consideriamo come nemici. E ci torna difficile cogliere l'importanza dell'interdipendenza tra piante e insetti nell'equilibrio fondamentale della vita. Eppure il mondo degli insetti è asservito al mondo delle piante e viceversa. Ognuno trova il proprio tornaconto, ripari per le uova e cibo per l'insetto, impollinizzazione e dispersione dei semi per la pianta. L'insetto assicura il movimento percettibile dei vegetali nei loro ambienti. Con gli insetti le piante guadagnano terreno. Parliamo adesso un po' delle piante. Allora, con le piante ho una lunga storia d'amore. Amo le piante sin da bambina. Adesso, per incoraggiare la gente a piantare semi, ho immaginato un sistema che permette di trasformare con successo i semi in piante. E certo, direte voi, li metti in terra e crescono, però qua vivo in un ambiente urbano, in città, e questo permette alla gente di cominciare un piccolo giardino anche a casa sua, sul tavolo di cucina o sulla finestra. Gli permette di cominciare a amare le piante, perché saranno loro origine della pianta. Allora, vi parlo un po' più a lungo di questo sistema che ho immaginato, che si chiama Vegetal Startup. Pas mal, non? Come non, ça claque. Vegetal Startup è un circuito chiuso ricavato in due bottiglie di plastica, risparmiando acqua e terra e proteggendo i germogli dalle aggressioni esterne. Che siano insetti, appunto, o polluzione, cioè, pollution, eccetera. Distribuisco un kit di sopravvivenza, quello famoso Vegetal Startup, dove rivelo i consigli per fabbricare se stesso queste incubatrici ermeticamente chiuse, utilizzando solo due bottiglie riciclate e un paio di forbici. Riciclaggio, ma non solo, qui è più adatto parlare di riutilizzo dedicato alla vegetalizzazione tanto necessario nel contesto attuale. In questo kit illustrato introduco anche semi di piante selvatiche raccolte durante le mie passeggiate, piante in via d'estinzione. Faccio alto di salvezza e mi sta molto a cuore promuovere questa piccola grande invenzione, della quale vi ho parlato adesso come fra parentesi, ma che è molto importante per me. Potete capire perché. Ritorniamo alle piante, queste nostri alleati. Consumare quotidianamente piante commestibili e medicinali aumenta il nostro capitale salute. Non sono strettamente vegetariana, però Questo fatto è vero. Ci riusciremo a riconoscere l'importanza del regno vegetale nell'equilibrio del vivente prima della nostra scomparsa? Continueremo la nostra folle corsa dando fede a soluzioni artificiali che proclamano la tecnologia come la regina delle soluzioni? La natura, se la si lascia fare, intreccia instancabilmente legami invisibili tra tutte le forme viventi. Sono questi legami che cerco di evidenziare nelle mie scimere. Quando la sociobiologia ci parla di coevoluzione tra piante e insetti, descrivendo le relazioni annodate nei loro cicli riproduttivi, appare un universo incredibile dove l'astuzia, la strategia, l'inatteso, il meraviglioso entrano in gioco. È proprio qui che si cristallizza la mia emozione, è qui che nascono le chimere, in questo incontro soprannaturale dove sono reali i frammenti vegetali presi in prestito dalla natura e dove sono considerate immaginarie le apparizioni che mi scappano dalle mani. Il mio lavoro consiste nel mettermi in corrispondenza con un inconscio profondo. Ne escono fuori queste forme improbabili, evocazioni di legami invisibili, identità segrete del continuum che la natura tesse instancabilmente tra tutte le forme viventi. Le chimere evocano questi legami. En passant, ecco una delle mie citazioni favorite del poeta Ovid. E nello stesso corpo, spesso una delle metà è viva e l'altra è fango informe, rifiuto, immondo. Una frase estratta dalle Metamorfosi di Ovide. Voilà, bon, siamo arrivati quasi alla fine. Volevo parlare anche dell'erosione della biodiversità che oggi è pregnante, purtroppo l'antropizzazione forsennata, le nostre nuove abitudini di selezione e di iperconsumismo hanno per conseguenza la distruzione degli habitat naturali delle specie vegetali e animali. E provocano gravi squilibri che saranno probabilmente all'origine dell'apparizione di virus sconosciuti. Parlo al futuro, ma il miglioramento delle piante e degli animali mediante biotecnologie efficienti ha dato la supremazia al rendimento. La tecnologia riversa processi irreversibili nell'ecosistema dell'intero pianeta Terra. Siamo entrati nell'era dell'antropocene, l'avvento degli uomini come principale forza di cambiamento sulla Terra, superando le forze geofisiche. È l'età degli esseri umani. L'essere umano, torniamoci, si rivela essenziale nella coesistenza del vivente. Allora, dove si scrive la responsabilità delle proprie azioni? Si pone la domanda: cosa sarà nel futuro? Demiurgo distruttivo o angelo protettore? Aujourd'hui j'ai de la chance, je suis encore là. Je vais et pouvoir voir le ciel encore une fois. L'air pur ici aussi se fait si rare que même les clébards disent qu'il y en a marre de respirer cette merde à plein poumon. Tout ça pour qu'un petit con gagne des millions. Tu sais que notre vie de chien ne suffit bien. Pas besoin de choper le cancer des êtres humains. Nous paierons cher sans doute votre insolence. Vous jouez avec ce monde par négligence. Les frontières de vos cartes n'y feront rien. Cette terre n'est pas à nous, vous le saurez bien. Je suis sa mère. Vous déchaînerez mes nerfs, je serai guère. Qu'elle vole vos maisons au-delà des mers. Vous donnerez des noms à mes colères. Vous êtes la raison de vos prières. Et vous aurez raison de vos cimetières. Qu'elle jaillisse les eaux sur votre espèce. N'aurez plus conscience votre petitesse. Je ferai de vos villes ce bel enfer, plus chaleureuse encore que le paradis. Vous tremblerez de peur dans vos demeures, car l'homme a fait de l'homme cette chose sans vie. Elle pleure, elle pleure, elle pleure, ma planète. Elle sent que sa fin est proche, elle a renfort. Ringraziando ancora Sylvie per la sua partecipazione, vorrei aggiungere ancora qualche brevissima riflessione. Gli insoliti ensemble che Sylvie realizza, rielaborando quello che da altri viene rifiutato, ci esortano a sviluppare una sensibilità che possiamo, soprattutto, usare non solo con gli oggetti, ma anche con le persone, oltre che con noi stessi, perché in ognuno di noi ci sono fratture, fragilità, ma anche diversi punti di forza che possono essere intercettati semplicemente ponendosi dal punto di vista dell'altro. E qui mi viene in mente il concetto di ecosofia, coniato da Félix Guattari, che esprime appunto queste tre ecologie: quella ambientale, in rapporto alla natura e all'ambiente, quella sociale, in rapporto alle realtà economiche e sociali, e quella mentale, il rapporto alla psiche, al problema della produzione della soggettività umana. E mi sembra che il percorso artistico di Sylvie Zampolini rispecchi in maniera autentica questi tre momenti chiave dell'ecologia. Ringraziandovi per averci seguito, eutopiste ed eutopisti, vi do appuntamento alla prossima, sperando ben presto di ascoltare anche le vostre eutopie. Au revoir.